capì. Tutta cromata. E tu a se dici sì. Costa una vita. Per niente la dare. Ma ho il cuore malato. E so che guarire. Non dire.